giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il tema della sicurezza degli autisti dei mezzi pubblici, sempre più spesso oggetto di aggressioni, irrompe nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato a Udine su Friuli Doc. Pedone investito alle 7 del mattino alle porte di Udine nel comune di Campoformido, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La tragedia di Premariaco, terminate le autopsie, nulla osta dalla procura di Udine per i funerali della giovane Alessandra Freschette e del suo istruttore, morti il 2 settembre in un incidente aereo. Concessioni balneari: dopo la proroga del governo che ha fatto slittare la scadenza al 2027, la regione non si rimangia, le gare già previste entro il 2024. La UIL chiede un chiarimento urgente. Ascoltare le difficoltà e i bisogni delle persone che abitano i quartieri periferici di Trieste è l'obiettivo dell'appuntamento promosso questa mattina al Revoltella dal progetto Habitat Microaree. Oggi è la giornata nazionale di sensibilizzazione contro il suicidio. Alle 18 via Mercato Vecchio Udine sarà illuminata di blu. Le iniziative organizzate nel capoluogo da Telefono Amico. L'Ordine dei Medici di Udine denuncia le eccessive richieste dei pazienti di esami diagnostici e farmaci. Va bene essere informati, ma le prescrizioni le devono fare i professionisti. Zoppola accoglie Giada Rossi, la giocatrice di tennis tavolo di ritorno dalle Paralimpiadi con la terza medaglia della sua carriera, la prima d'oro. Siamo andati a trovarla. Ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrea Sauli. In apertura dunque il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, organizzato in prefettura a Udine in vista della manifestazione di Friuli Doc. Si è parlato di questo ma anche di altro, sentiamo. Si è parlato anche di sicurezza sui mezzi pubblici al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di Udine stamattina. Una discussione a latere rispetto al principale ordine del giorno previsto in agenda, l'organizzazione di Friuli Doc, la rassegna gastronomica che tra giovedì e domenica richiamerà un gran numero di persone nel centro del capoluogo friulano. L'aggressione a un autista la mattina del 1 settembre da parte di 4 ragazzini di ritorno da Grado ha accelerato la discussione già aperta tra prefetture e Riva Udine, la società che gestisce il trasporto pubblico locale in Friuli. In primo piano alcuni aspetti che possono migliorare la sicurezza dei lavoratori: un collegamento diretto tra autobus e sale operative delle forze di polizia anche tramite un pulsante già installato sui mezzi, un potenziamento del servizio di vigilanza privata e un allargamento della videosorveglianza agli autobus extraurbani con il possibile collegamento in tempo reale delle telecamere alla centrale operativa dell'azienda di trasporto pubblico. Sono alcune delle soluzioni che saranno approfondite in un incontro da fissare a breve tra prefetture e Riva, il primo di una serie per verificare l'attuazione di un piano già messo in campo e suscettibile di variazioni, mentre il prefetto di Udine Domenico Leone apre a un nuovo confronto con i sindacati da loro richiesto, allargato alla regione che si è resa disponibile a collaborare. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Tre autopsie, la procura di Udine ha dato il nulla osta per la sepoltura della giovane studentessa e del suo istruttore morti il 2 settembre in un incidente aereo a Premariaco. La data non è ancora certa ma con molta probabilità si svolgeranno venerdì 13 settembre. Si parla del funerale di Alessandra Freschette, la studentessa di 15 anni di Roveredo in Piano. Già stabiliti invece i funerali dell'istruttore Simone Fant, che si terranno sabato 14 settembre in mattinata a Qualso di Reana del Royale, paese natale dell'uomo, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Un pedone è stato investito questa mattina intorno alle 7 alle porte di Udine nel comune di Campoformido. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto ha urtato una persona che si stava spostando a piedi, facendola cadere dopo un volo di alcuni metri. Dopo l'allarme lanciato al NUE, la centrale operativa regionale della SORES, ha inviato sul posto un'auto medica e un'autoambulanza. Il personale sanitario ha stabilizzato il ferito sul posto prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi per i politraumi al cranio e agli arti, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Il segretario generale UIL del Friuli Venezia Giulia, Matteo Zorn, chiede alla regione di chiarire velocemente la situazione sulle gare per le concessioni balneari che per effetto di una norma regionale in Friuli Venezia Giulia sono già partite e che devono svolgersi entro il 2024, mentre il governo nazionale ha appena fatto slittare le gare entro la metà del 2027. Per anni l'Italia ha fatto il gioco delle tre carte sull'obbligo di mettere a gara le concessioni balneari, come previsto dalla direttiva europea Bolkestein, spiega Zorn. Per tutto questo tempo l'Italia ha pagato con i soldi di tutti sanzioni per violazioni della concorrenza e del libero mercato, mentre chiedeva ai balneari, quasi una corporazione, dei canoni ridicolmente bassi. Dall'altra parte i concessionari realizzano enormi profitti grazie ai prezzi all'ombrellone assurdi a fronte di investimenti quasi sempre solo vantati. Da parte sua, continua il segretario della UIL, la regione Friuli Venezia Giulia si è mossa autonomamente e ha ordinato ai comuni di mettere a gara le concessioni con le dovute tutele per i concessionari uscenti. Ora non vorremmo che la regione, afferma Zorn, si rimangiasse quella certezza che ha saputo ritagliare alle proprie imprese e lavoratori, ributtandoli nel gioco di una norma nazionale furba, per non dire maliziosa, fissando il termine a metà 2027. Infatti la norma nazionale è evidentemente tarata per far nuovamente saltare le gare, conclude Zorn. La scadenza cadrà in un periodo in cui o l'attuale maggioranza di governo sarà in campagna elettorale o vi sarà già un altro governo. A questo proposito, venerdì è previsto un incontro a Trieste nella sede dell'assessorato regionale al Demanio con i rappresentanti dei comuni costieri interessati ai rinnovi delle concessioni, durante i quali ci sarà un confronto sul tema e presumibilmente verrà presa una decisione sull'eventuale slittamento dei termini. E ora il tempo: il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo con una temperatura di 26 gradi e mezzo. Pordenone 23 e mezzo, Gorizia 24, Udine 24 e mezzo, Sappada 16, Tarvisio 17 e mezzo, Piancavallo 18, Forni di Sopra 20 e mezzo, Tolmezzo 21, Monte Lussari 11 e mezzo, Monte Zoncolan 13 e mezzo, Grado e Lignano 22 con una temperatura del mare di 25 gradi. Queste invece le previsioni a cura dell'ARPA regionale. Nelle prossime ore cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio cielo variabile sulla zona montana e sarà possibile qualche rovescio o qualche temporale che dalla fascia prealpina potrà poi interessare anche l'alta pianura o le valli del Natisone. A Trieste, in corso al Museo Revoltella, il Festival delle Comunità, una mattinata di ascolto e confronto sui rioni periferici della città. Sono rimasto un anno e mezzo chiuso in casa, poi invece con la microarea mi hanno portato fuori, mi hanno ridato in un certo senso la vita. Ogni storia è preziosa, ogni voce è forte per capire quali sono i bisogni delle persone che abitano i rioni. Un appuntamento tra i più importanti per la progettazione dei servizi promossi nell'ambito del progetto Habitat Microaree di Trieste, un unicum a livello nazionale perché realizzato in sinergia tra il Comune, la SUGI e l'ATER, ma anche associazioni e organismi della cooperazione sociale e del volontariato. Un appuntamento fortemente voluto dalle cooperative La Quercia e 2001, che gestiscono 14 microaree con attività in campo sanitario, assistenziale, abitativo e di benessere generale. Massimiliano Capitanio, coordinatore microaree per la Quercia. Oggi tutta la parte dei rioni, quindi della periferia di Trieste, non diversamente dal centro cittadino, chiede molta sicurezza, dove la sicurezza non sempre è intesa come mandateci le forze di polizia, ma dateci prossimità, dateci effettivamente dei luoghi, quelli che mancano sempre di più, per lo svuotamento di esercizi commerciali nei rioni periferici, piuttosto che di associazioni. Ascoltare le richieste e scambiarsi le buone prassi è stato l'obiettivo dell'incontro sostenuto dal Comune, che punta a fare rete mettendo la persona al centro, ha detto l'assessore Tognolli. Le microaree sono oggi un punto di riferimento per tutta la popolazione, giovane ed anziana, come ci spiega Carmela Palumbo, 86 anni e attivissima nella microarea di Opicina. La comunità non vuol dire essere là che tutti insieme, vuol dire stare bene nella diversità, accettare le persone per quelle che sono, anzi i difetti devono diventare qualcosa da cui partire per poter stare insieme. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. Secondo un'indagine di immobiliare.it, Lombardia e Trentino Alto Adige sono tra le regioni con la maggiore offerta di immobili in classe A o superiori, con percentuali molto vicine al 14-13%, l'ultima regione in doppia cifra, con una percentuale di immobili già altamente performanti, pari al 10%, e il Friuli Venezia Giulia, dove il dato viene spinto verso l'alto dal 28% di Pordenone. Dalle 18 in via Mercato Vecchio, Cuore di Udine illuminata di blu, nella giornata mondiale per la prevenzione dei suicidi, l'associazione Telefono Amico con dei banchetti di sensibilizzazione aiuterà le persone a ragionare sulle proprie emozioni. Le richieste di aiuto sono moltissime e sempre più spesso riguardano i giovani dai 15 anni in su. Se per molti la pandemia è ormai cosa passata, esperienza da dimenticare e andare oltre, per molti altri i suoi effetti purtroppo si sentono ancora. Solitudine, isolamento, ansia. Nella giornata mondiale contro il suicidio, Telefono Amico, associazione nazionale che si occupa di sostenere le persone nei momenti di fragilità, pubblica dati sconcertanti, seppur in miglioramento, sul numero di richieste d'aiuto. 7.000 richieste in tutta Italia nel 2023, più 24% dall'anno precedente, ma nei primi sei mesi del 2024 un leggero trend positivo comincia a intravedersi, meno 6,5% di telefonate. Noi siamo a Udine con Elisa Peressin, presidente del centro di Udine. Cosa state notando in questi anni? Si è abbassata l'età forse delle persone che chiama o che scrive via WhatsApp? Sì, sicuramente si è abbassata di molto la fascia di età di chi chiama, quindi c'è una fascia molto ampia dai 15 ai 34 anni che sicuramente, diciamo, negli anni precedenti non avevamo. I giovani prediligono soprattutto appunto magari chattare via WhatsApp, ma non disdegnano anche la chiacchierata al telefono. Questi ragazzi che tipo di problematiche hanno? Paradossalmente in un'epoca, diciamo, di social, dove siamo tutti connessi, possono parlare o chattare via WhatsApp su problematiche invece molto, molto profonde, relative proprio ad una profondità anche che a volte nasconde, diciamo, un'oscurità, un buio, in effetti che forse all'esterno sono comunque emozioni difficili da esprimere. Voi che cosa fate di fatto? Di fatto noi ascoltiamo, il nostro è un ascolto empatico, attivo, non giudicante, anonimo, quindi diciamo che chi chiama ha questa possibilità di esprimersi con la massima libertà e in questo senso cercare da solo, con l'aiuto ovviamente del volontario, di trovare da sé le strategie per uscire dal proprio scuro. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono sempre più frequenti le segnalazioni che arrivano all'Ordine dei Medici di Udine da parte dei medici di medicina generale sulle richieste dei pazienti. Più volte l'Ordine è intervenuto sull'appropriatezza delle prescrizioni di esami diagnostici come TAC, lastre e risonanze magnetiche richieste dai pazienti. A queste purtroppo si aggiungono le richieste di prescrizioni di farmaci che non sempre sono la strada giusta per trattare una patologia. Un esempio per tutti, l'ormai famosa compressa che serve a curare il diabete, oggi usata per dimagrire. Spopola negli Stati Uniti, tanto che i diabetici faticano a trovarla e il problema ha fatto capolino anche qui. Effettivamente si tratta di un farmaco utile a dimagrire, spiega il presidente dell'ordine Gianluigi Tiberio, ma se il paziente deve perdere solo qualche chilo, la strada corretta è uno stile di vita sano, un po' di dieta e l'attività fisica. Questo aggiunge solo un esempio, ma sono sempre di più i pazienti che cercano di imporre al proprio medico la prescrizione di un farmaco facendosi un'autodiagnosi. È corretto che i pazienti siano consapevoli e informati, sottolinea, ma è il medico e solo il medico che può prescrivere il trattamento più appropriato per quel paziente. Il meeting annuale del gruppo europeo e giapponese degli scienziati che si occupano di liquidi molecolari si sta svolgendo a Trieste nelle aule della Sissa con il supporto di Elettra Sincrotrone. Oltre 100 scienziati da 20 nazioni si confronteranno fino a venerdì sulle proprie ricerche e avranno modo di conoscere le infrastrutture scientifiche del capoluogo. Il meeting congiunto degli scienziati del gruppo europeo e di quello giapponese che studiano il comportamento delle molecole allo stato liquido, coordinato per l'occasione dall'Elettra Sincrotrone e dall'Università di Perugia, è un appuntamento prestigioso per gli scienziati che si occupano di ricerca di base e delle sue applicazioni. Come spiegano i due coordinatori dell'evento, Marco Paolo Antoni, professore di fisica chimica all'Università di Perugia, e Barbara Rossi del Sincrotrone. Quello che cerchiamo di fare è spiegare a livello fondamentale la relazione che c'è tra le proprietà delle molecole che costituiscono i liquidi e le loro proprietà macroscopiche. E comprendere questa relazione significa capire qualcosa di più circa le proprietà dei liquidi e magari sintetizzare o modificare le nostre molecole in modo da avere proprietà specifiche che possono avere ovviamente anche ricadute applicative e tecnologiche. Eutica è possibile per esempio oggi avere la possibilità di formare specifici materiali biocompatibili che abbiano proprietà tali da permettere per esempio, come accennava, un rilascio di farmaci controllati. Quindi anche questa mattina ad esempio abbiamo parlato di possibili applicazioni di nuove tecniche diagnostiche per ad esempio la rilevazione e la caratterizzazione dei virus, ma parleremo anche ad esempio dell'utilizzo di tecniche di luce come ad esempio la luce di sincrotrone che noi conosciamo bene per l'analisi degli alimenti. Fino a venerdì gli oltre 100 scienziati arrivati a Trieste dal Giappone, dall'Australia, Stati Uniti e dall'Europa hanno modo di confrontarsi sulle proprie ricerche e gli studi e lo fanno di persona con i colleghi. La presentazione delle ricerche in presenza è considerato un valore aggiunto del meeting che avrà un solo ospite in collegamento da remoto. Oltre a creare reti intrapersonali, il meeting sarà anche l'occasione per i ricercatori di conoscere Elettra Sincrotrone da vicino e le altre infrastrutture scientifiche della città. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. La CGIL, nell'ambito della campagna nazionale Turismo Sottosopra, vuole condividere riflessioni e pensieri sugli operatori del settore sottopagati e sfruttati. Lo fa a Lignano attraverso un'animazione teatrale rivolta soprattutto a chi lavora nel turismo, ma che punta a coinvolgere nella riflessione cittadinanza, turisti e imprenditori. L'animazione avrà luogo domani a Lignano Pinetta in piazza Marcello d'Oliva alle 18, una serata che farà sorridere e pensare con la compagnia A Parte che presenterà lo spettacolo Il Turismo nel Sottosopra, puntando il dito sulle irregolarità del lavoro. Con questa iniziativa ancora una volta la CGIL ribadisce che il lavoro vale e che sui diritti non bisogna cedere, che il turismo non può continuare ad essere precarietà e sfruttamento e vuole dare voci a lavoratrici e lavoratori. Tornano a casa gli ori regionali delle Paralimpiadi di Parigi, parliamo di sport. Zoppola ha accolto Giada Rossi, la pongista, la terza medaglia olimpica della sua carriera, la prima d'oro. Siamo andati a trovarla. L'emozione a caldo è grandissima, proprio non so ancora cosa io abbia fatto sinceramente, sono veramente tanto emozionata e quello che si è scatenato, cioè se già quando ero tornata dal bronzo si era scatenato il mondo, adesso con l'oro, non so, è una cosa di proprio devastante. La incontriamo nella sua casa di Zoppola, Giada Rossi. L'emozione è ancora caldissima. Ieri è rientrata dai Giochi Paralimpici di Parigi, dove ha conquistato uno straordinario oro nel singolare femminile di tennis tavolo. È una medaglia pesante, significa tanto, significa un percorso che tanti anni che porto avanti, significa veramente aver creduto in questo viaggio e averci messo sempre tutto, e aver lottato anche quando ci sono state le sconfitte. La friulana è riuscita a battere in 3 set la 9 volte campionessa la cinese Liu Jing. Mi sembrava imbattibile, forse essersi goduta, perché veramente essersi goduta quella partita, ogni singola pallina ha fatto sì che io non pensassi mai che fosse imbattibile. Le prime parole sono state: ma cosa abbiamo fatto? È l'impresa della vita per Giada, a 14 anni, l'incidente che l'ha costretta in carrozzina, a 30 l'oro olimpico, che dice: dedico a me stessa e alla mia famiglia, papà Andrea, mamma Mara e il fratello Simone. Siamo e vogliamo essere fieri e propositivi, solo cose belle. Il percorso è stato lunghissimo, si raccoglie quello che si semina ed è andata bene, insomma. Sacrifici ne ha fatti tantissimi, ne abbiamo fatti tantissimi, lei in primis, perché poi è lei che ha messo lo sport davanti a tutto. Cosa ti ha insegnato l'esperienza di tua sorella? Crederci sempre e non mollare mai. La sua Zoppola intanto è pronta a festeggiarla domani sera al Palazzetto dello Sport, il sindaco Antonello Tius. La comunità di Zoppola è molto fiera di avere questa rappresentante. Giada, oltre che essere una grande sportiva, è anche una grande donna che ha dimostrato veramente con grande carattere, forza di volontà, che si possono raggiungere grandi traguardi. Zoppola, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È partita dal Museo Sartorio di Trieste la tournée dello spettacolo teatrale con la regia di Rodolfo Carraresi dedicato a Eleonora Duse, protagonista l'attrice di origini triestine Isabel Russinova. A 100 anni dalla scomparsa di quella che ancora oggi è nota come la divina Eleonora Duse, lo spettacolo teatrale, scritto e impersonato da Isabel Russinova, triestina d'adozione, ne ripropone la figura ricordandone non solo successi e modernità di spirito, ma anche il lato più intimistico e psicologico. In Duse, come vento soffiato dal mare, mi racconto, emergono infatti sia le peculiarità di un artista capace di affermarsi per lo stile recitativo o personalissimo, sia l'individualità di una donna tuttora ricordata per l'impegno dedicato all'emancipazione femminile. Con Gabriele fu diverso. Io non sono stata presa da lui all'inizio, al contrario. Però sentivo che avrei dovuto instaurare una relazione lavorativa. Io avrei potuto avere i miei testi, con messaggi importanti volti all'emancipazione, alla ribellione, dove raccontare l'intelligenza della donna e non sempre soltanto le femmine, piegate su stereotipi borghesi e a servizio dei ruoli maschili. Ne emerge un ritratto interiore che dà spazio anche alle sconfitte di una donna considerata la più grande attrice del suo tempo. Non mi sono mai interessati i suoi tradimenti, le sue bugie, ma ho molto sofferto. Recitato in prima assoluta al Museo Sartorio di Trieste per la regia di Rodolfo Martinelli Carraresi, lo spettacolo ha in programma una tournée nazionale e internazionale e si avvale della musica dal vivo su sonorità dell'epoca del fisarmonicista Andy Zecca. Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tornano i grandi concerti per la Barcolana. Venerdì 4 ottobre in Piazza Ponte Rosso si esibiranno i Subsonica, la band rock elettronica torinese, reduce dal successo del tour dell'ultimo disco Realtà Aumentata. Torna a suonare alla regata più partecipata d'Italia a 23 anni a distanza dal concerto del 2001. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Andrea Saule, in regia per la parte tecnica Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.